versione di Oscar Giannino. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, in diretta alle 16.30, primi 13 secondi dagli studi di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia e vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it, e subito andiamo all'argomento della giornata per consentirvi di valutare se telefonarci all'800 24 00 24 e mandarci le vostre opinioni con gli sms al 349-238-6666. Di cosa parliamo oggi? Del tema che diventerà oggi, entro stasera forse, più probabilmente anche domani, in realtà che diventerà, vedremo quanto arroventato, con la decisione di cui siamo in attesa da parte della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale, dopo settimane fa la sentenza che è intervenuta sulla mancata perequazione per due anni, 2012 e 2013, delle pensioni superiori a tre volte il minimo INPS, è attesa prendere una decisione che potrebbe avere potenzialmente un impatto sulla finanza pubblica un multiplo superiore rispetto a quella delle pensioni, dove c'erano in ballo quasi 18 miliardi di euro se ci fosse stato il recupero integrale di quei due anni di mancata perequazione. Sapete che poi il governo ha disposto un recupero di poco inferiore a 2 miliardi, non 18, perché la Corte Costituzionale da oggi è riunita per decidere in merito a un ricorso che è stato presentato da un sindacato, la CONSAL, in merito al blocco degli scatti dei contratti pubblici disposto nel 2010. E quindi la Corte Costituzionale, vedremo che cosa deciderà in merito alla costituzionalità di quel blocco. La Corte può prendere decisioni di tipo molto diverso, se dovesse, anche se i più scommettono di no, pronunciarsi per il recupero integrale degli scatti mancati da allora nel settore pubblico. Il documento presentato all'Avvocatura Generale dello Stato, secondo le cifre elaborate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevederebbe un impatto sulla finanza pubblica pari a 35 miliardi di euro. C'è l'ipotesi poi di una sentenza invece che, per così dire, si pronunci, vedremo come, sul blocco, ma in ragione della sua troppo prolungata durata inviti prescrittivamente il governo a procedere nel più breve volgere il tempo possibile al rinnovo dei contratti, che sono intanto fermi, con ipotesi numero 3, magari, di recuperare qualche cosa. Quindi, insomma, diciamo, la Corte Costituzionale ha di fronte a sé un ampio ventaglio di ipotesi, poiché può fare sentenze additive interpretative e così via. La domanda che vi faccio, alla luce di qualche numero, prima di presentarvi l'ospite, perché è ovvio che oggi diamo la parola ai sindacati del settore pubblico per capire che cosa si aspettano, e di chiedere però la vostra opinione sui numeri delle retribuzioni comparate private rispetto a quelle del settore pubblico, e quindi di telefonare per dirci se siete un lavoratore pubblico, naturalmente appartenente ai 3 milioni e poco meno di 200 mila di lavoratori pubblici. Telefonateci comunque per dire che cosa vi aspettate dalla Corte Costituzionale. Se siete un lavoratore privato, dateci la vostra opinione rispetto a questi numeretti che io adesso vado rapidamente a ricordarvi sull'andamento delle retribuzioni pubbliche e sul rapporto rispetto a quelle private. E terza cosa, nel totale delle retribuzioni pubbliche, cosa che a me ha sempre molto colpito, quelle dei dirigenti, perché come voi sapete parlare di medie statistiche ha un senso fino a un certo punto, perché la media è fatta poi inglobando coloro che guadagnano molto di più degli altri. Allora, cominciamo esattamente da il rapporto delle retribuzioni dei dirigenti pubblici italiani rispetto al reddito pro capite nel denominatore. Questi dati sono per l'Italia del 2013 ed erano elaborati l'anno scorso in una delle slide del rapporto Cottarelli sulla spending review, perché Cottarelli puntava esplicitamente a intervenire solo sui dirigenti pubblici, solo sulle retribuzioni dei dirigenti pubblici, pur intervenendo in un quadro che dal 2010 vedeva la stasi, lo stop dell'aumento delle retribuzioni dell'intero settore pubblico. Tra l'altro, lo stop di questo degli aumenti insieme allo stop del turnover è ciò che ha determinato la stabilizzazione in termini reali, non nominali, della spesa totale in retribuzioni pubbliche nel totale del bilancio dello Stato, intorno a 164 miliardi di euro in questi anni, il che significa che poiché il resto della spesa corrente corre, diminuiscono poi di anno in anno il totale delle retribuzioni, di poco ma retribuiscono perché si sono fermate in termini reali negli anni grazie a questo stop. Se andiamo a vedere quanto pesa la retribuzione dei dirigenti pubblici sul reddito pro capite, in Italia per i dirigenti apicali, diceva Cottarelli, la retribuzione del dirigente pubblico apicale, quello per il quale vale la fascia dei 280.000 euro da due anni a questa parte, anche se non da tutti rispettati ancora, ecco, in quel caso la retribuzione lorda rispetto al reddito pro capite italiano del dirigente apicale è pari a 12,63 volte in Italia. Tenete conto che in Germania è 4,97 volte. Quindi da noi è 3 volte superiore rispetto al reddito pro capite, in Francia è 6,44 volte, quindi comunque la metà che in Italia, nel Regno Unito 8,48 volte e quindi un quarto meno che in Italia. In Italia i dirigenti apicali hanno un multiplo che è veramente fuori linea rispetto all'Europa sulle retribuzioni pro capite italiane. Se scendiamo, dirigenti di prima fascia pubblici italiani hanno una retribuzione del 2013 pari a 10 volte quella del reddito pro capite, anche qui in Germania 4,2 volte, in Francia 5,2 volte, in Gran Bretagna 5,5 volte, da noi 10,1. Se scendiamo ai dirigenti di seconda fascia con funzione di coordinamento, quelli italiani pubblici nel 2013 avevano rispetto al reddito pro capite degli italiani 4,69 volte, un reddito pari a 4 volte e mezza, in Germania sono 3,4 volte, in Francia 4,4 e nel Regno Unito 4,1. Se scendiamo ai dirigenti di seconda fascia, quelli italiani pubblici hanno un reddito pari a 3,4 volte quella del reddito pro capite, nel Regno Unito 2,9 e in Francia 3,1. Come vedete, la cosa eclatante riguarda i dirigenti apicali e i dirigenti di prima fascia, che hanno i dirigenti apicali 12,6 volte una retribuzione rispetto al reddito pro capite e i dirigenti di prima fascia 10,1 volte. Perché lo dico? Perché va distinto, perché non è che gli altri dipendenti pubblici hanno multipli di questo genere. Se andiamo a vedere il rapporto nel tempo tra retribuzioni pro capite del settore pubblico e quelle del settore privato, una costante italiana è quella che l'andamento negli anni della retribuzione pro capite pubblica è superiore all'unità rispetto a quella del settore privato, però ha andamenti nel tempo che hanno visto una discesa in questi ultimi anni grazie al blocco del 2010 su cui si deve pronunciare la Corte Costituzionale. Questo blocco però non è che l'ha fatto scendere all'unità, cioè pur essendosi fermato in termini reali il monte salari pubblico nel nostro paese, resta un divario a favore delle retribuzioni pro capite pubbliche rispetto a quelle private. Pensate che ho in mano il grafico dal 1980 al 2014, la vetta dell'andamento favorevole ai dipendenti pubblici l'abbiamo avuta nel 1990, quando le retribuzioni pro capite pubbliche sono arrivate a essere quasi 1,4 volte quelle delle retribuzioni private in quello stesso anno. Dopodiché nel 94-95 si è scesi a 1,2, poi si è risaliti verso il 2005-2006 di nuovo a 1,35 e nel 2014 siamo a 1,23. Cioè le retribuzioni pubbliche, malgrado il blocco che le ha fatto scendere da 1,35 a 1,25 rispetto a quelle sempre pro capite ma private, continuano a essere superiori. E questa mattina, fine della mia troppo lunga introduzione, la CGA di Mestre di Giuseppe Bortolussi ha tradotto questo andamento ancora a vantaggio della retribuzione pro capite pubblica rispetto a quella privata in una dimensione quantitativa, e la dimensione quantitativa è che sebbene appunto siano stati bloccati con l'intervento legislativo del 2010 dal 2011 gli aumenti retributivi degli statali, dei dipendenti pubblici, comunque nel 2014 i dipendenti pubblici hanno portato a casa mediamente lordi 34.286 euro e invece quelle private 32.315 appunto, è la traduzione in euro lordi di questo vantaggio che continua a esserci nelle retribuzioni pro capite pubbliche rispetto a quelle private. Ecco, questi sono dati per così dire inoppugnabili, perché sono dati tutti ufficiali fatti con rilevazioni Istat alla mano, tranne i primi che vi ho citato, quelli sull'eccesso della retribuzione, l'eccesso, il multiplo della retribuzione dei dirigenti pubblici rispetto al reddito pro capite degli italiani, quelle sono elaborazioni di Cottarelli. Questo è il quadro di fronte a noi, che naturalmente nulla leva al fatto che i dipendenti pubblici adesso si trovano da 5 anni con le cose bloccate, anche se ovviamente gli effetti per chi sta in basso e guadagna meno non sono paragonabili a quelli dei dirigenti apicali di prima fascia e seconda fascia. Per parlarne e per spiegarci che cosa si aspetta il suo sindacato abbiamo con noi il segretario nazionale della funzione pubblica della CISL, Giovanni Faverin, che io ringrazio. Buon pomeriggio di essere con noi, Giovanni. Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, mi perdoni se ho richiamato i nostri ascoltatori un po' di numeri, però ci dica, voi cosa vi aspettate dalla Corte Costituzionale? Ma ci aspettiamo una soluzione di compromesso, anche perché bisogna dire che la Corte si pronuncerà su questo primo ricorso che chiama in causa il ragionamento della ragionevolezza rispetto al blocco soltanto per i primi 2 anni, quindi in origine quello che è stato accolto era un ricorso rispetto a un ok di un giudice che parlava di 2010, 11 e 12, quindi potrebbe esserci un avviso ai naviganti, al governo, a dire non potete tenere troppo lungo il blocco e quindi una mediazione. Questo sarebbe importante per far capire al governo che non si può fare il gioco delle tre carte, sia il governo Monti che il governo Renzi, ma sarebbe stato più serio aprire un tavolo, dire ci sono pochi soldi. Del resto anche nel rinnovo 2008-2009 Brunetta aprì un tavolo dicendo Prodi ci ha lasciato 8 euro medi, io non vi posso dare più del 3,2, e si fece un contratto con i soldi che erano disponibili. Dico solo che se la sentenza appunto non fosse del tutto favorevole, io spero a far riflettere il governo, ci saranno altri ricorsi, perché anche tutti gli altri sindacati confederali, noi compresi, si stanno appellando chiedendo una pronuncia sui 6 anni di blocco, perché mentre può essere comprensibile in una fase di difficoltà del paese un blocco di 1, 2, 3 anni, un blocco di 6 anni che ha fatto scendere, come ha detto bene lei, da 172 miliardi a 164 il costo degli stipendi dei dipendenti pubblici, ma ha visto la spesa pubblica salire da 807 miliardi a 834, rispetto alla ragionevolezza e al contenimento, rischia di mettere in discussione la bontà del provvedimento. Era molto più utile sfidare i dipendenti pubblici, poi lei ha detto bene anche i dirigenti, c'è una parentesi da fare, su maggiore produttività, qualità, velocità, appropriatezza, diminuire di un terzo gli enti, dire se sono troppi dirigenti e realizzare lì quel cammino di qualità, di produttività che nessun governo ha coraggio di fare, perché i governi fanno norme e non sanno riorganizzare per dare a cittadini e imprese un apparato pubblico fatto da una piattaforma di servizi veloci, usando le competenze delle persone e non le norme, le burocrazie e le interpretazioni. Ecco perché anche questo governo sbaglia a non sfidare il sindacato, che non è il sindacato ma i rappresentanti di 3 milioni di persone, a un cambiamento, a un aumento di velocità, di qualità nel consentire al paese produttività del pubblico impiego e non costo. Va detto che, cari ascoltatori, sul totale di tutte le voci della spesa pubblica, l'andamento che abbiamo ricordato, confermato appunto da Favarin, della CISL, cioè il blocco in termini reali della spesa in questi ultimi due anni dei dipendenti pubblici per effetto del blocco assunto su cui si deve pronunciare la Corte Costituzionale, è l'unica, sottolineo, l'unica grande voce di spesa pubblica corrente che ha conosciuto questa dinamica, mentre tutte le altre hanno continuato a crescere e gli interventi di contenimento sono stati di contenimento rispetto al tendenziale, ma comunque le hanno fatte crescere le altre voci, le voci per acquisti, sanità e così via. L'unica voce che si è fermata della spesa corrente in termini reali, il che significa che diminuisce di anno in anno rispetto alla spesa poi che sale, è stata questa sui dipendenti. Naturalmente poi in realtà il comparto della spesa che è stata tagliata davvero di più è quella per investimenti, fuori dalla spesa corrente quella è stata tagliata di un quarto addirittura in questi anni di crisi, cioè del 25%, perché con quella è chiaro non si fanno voti. Però detto questo bisogna riconoscere che quindi il sacrificio c'è davvero rispetto a tutte le altre voci, a tutte le altre voci di spesa. La domanda che faccio a Favarin, se fosse una sentenza ragionevole, come ha detto lei, cioè una sentenza che dica al governo il blocco è stato troppo lungo, a questo punto mettete mano immediatamente al rinnovo dei contratti e magari con un occhio a recuperare non solo l'inflazione che resterà bassissima, ma anche qualche cosa del pregresso, se la Corte si pronuncia sulla durata troppo lunga del blocco è anche logico che possa argomentare così. Ma in quel contesto, se il governo vi dicesse però prendiamo l'idea di Cottarelli e interveniamo sui multipli ancora troppo elevati dei dirigenti, al di là del tetto del primo presidente della Corte di Cassazione, ma vi proponiamo di intaccarli, il sindacato cosa fa a quel punto? Conosce che c'è un problema rispetto a quei multipli di dirigenti, soprattutto apicali di prima fascia, che guadagnano veramente tanto rispetto agli altri, oppure difende dicendo non si tocca? Che sia questo proprio il punto che anche il governo non sta individuando come obiettivo. Non è possibile che a più legislature aumentino i dirigenti e i dirigenti apicali siano in parte frutto di quello scambio ti do di più perché tu mi consenta di usare i bilanci per fare consenso, perché questa è la verità dei multipli a cui siamo arrivati a 12, non c'è nessun elemento, non ci sono retribuzioni corrisposte a fronte di una riorganizzazione, efficientamento, qualità, misurazione, è lo scambio perverso della politica che neanche questo bravissimo e giovane rottamatore come Renzi è stato in grado di incidere, anzi lui trasforma, non dice ce ne sono troppi, ce ne servono meno, bisogna pagarli meglio, ma quelli che abbiamo, ma trasforma la questione in fiduciaria allo Star System, alla Matriciana o alla Fiorentina, nel senso che decido io, ti do l'incarico se sei bravo o no, e si ricongiunge quel problema che non consente ai cittadini di vedere trasparenza nei conti pubblici, che è la questione il più grande deterrente, e offrire indicatori ai cittadini per dire se la mia azienda sanitaria, se il mio comune, se la mia regione usa bene i soldi delle mie tasse. Quello è quello a cui si dovrebbe concentrare un governo che vuole portare trasparenza. Quindi le dico sì, siamo pronti a dire che ci sono troppi dirigenti in troppi enti e che vanno premiati e pagati di più quelli che portano risultati per la collettività, non per le delibere interne che servono alla politica, alla politica o all'assessore, certo, ma di questo si tratta. Guardi, ohimè, io sono d'accordo, lo dico da anni, però vediamo intanto la Corte cosa decide, vedo che ci sono telefonate, poi leggo i messaggi, intanto strada. La versione di Oscar. Allora, gli sms sono divisi come immaginavo, molti privati che dicono che comunque dovrebbe essere la stessa retribuzione e continua a non esserlo, un mucchio di pubblici dicono a me lavoraci tu e campaci tu con i quattro soldi che danno a noi bloccati da 6 anni. Beh, pensate che la colpa sia mia, cioè io sono mica un lavoratore dipendente, mi devo sbattere perché qualcuno mi paghi. Molti sono irritati frustrati dal fatto di continuare a rimarcare che il rapporto è superiore all'unità. Non ci posso fare niente, sono dati Istat, cioè non è che è mancare di rispetto spiegare ai dipendenti privati e agli autonomi che ci ascoltano che comunque l'andamento delle retribuzioni pubbliche è superiore all'unità rispetto a quelle dei lavoratori privati, e sono i dati e bisogna conoscerli. Sentiamo le telefonate. Rita da Roma, prego Rita. Buonasera Giannino. Buonasera. La devo ringraziare per l'analisi puntuale che finalmente sento fatta in termini molto seri rispetto a tutto quanto il problema delle retribuzioni dei pubblici dipendenti, perché le retribuzioni dei pubblici dipendenti nella media mi viene in mente subito la media del pollo, e quindi è puntuale l'analisi che lei ha fatto sul problema dei dirigenti, il problema delle retribuzioni che sono veramente... come dire, sono lievitate da quando, dopo la riforma Bassanini sulla privatizzazione tra virgolette del pubblico impiego, le retribuzioni dei dirigenti, grazie alla con consapevolezza in questo dei sindacati, e mi fa specie un po' che Faverini viene lì e sembra che venga da un altro pianeta. Poi lo risentiamo, dobbiamo dargli la facoltà di replica. Faverin, soprattutto la CISL, che è il sindacato più rappresentativo nel pubblico impiego, che proprio grazie a una politica di un certo tipo avvallata dai sindacati, c'è questa forbice tra stipendi della dirigenza, poi lei ha le suddivise in fasce, io per brevità devo per forza tagliare con l'accetta tutto quello che le devo dire, e il resto del comparto è lievitato in questo modo, quindi la responsabilità è anche dei sindacati, come anche dei come dire, come anche del sindacato il fatto che la dirigenza poi in questi anni sia stata coperta e che non abbia avuto quel ruolo di responsabilità che doveva avere nelle more proprio della riforma Bassanini, assunzione di responsabilità in cambio di aumenti di stipendio. Gli aumenti di stipendio ci sono stati, ma le assunzioni la responsabilità e i giudizi di merito non ci sono. Le posso garantire, lavoro in tutti i comparti, ho lavorato per una serie di esperienze che ho avuto nella vita, e quindi le posso garantire. E lei che si aspetta che dalla Corte? Non è. Lei che si aspetta dalla Corte? Io mi aspetto dalla Corte innanzitutto che venga ristabilito il concetto che i lavoratori pubblici, anche se continua ad esserci questa differenza, ma poi lei sa che è sempre la media del pollo che conta, per cui io posso dire che per esempio nel contratto degli enti pubblici in economici, il contratto dei ministeri, il contratto degli enti locali, lei sa che ci sono delle differenze, certo, notevoli, certo. Quindi la media è quella, ma se poi andiamo a vedere i singoli contratti, chiaro, lei vedrà che veramente ho detto all'inizio che il concetto di media è ovviamente ha delle approssimazioni difficilmente digeribili per chi ha poi rapporti distinti e sta sotto la media. Sentiamo Antonio da Pescara. Antonio, prego. Buonasera dottor Giannini. No, Giannino, io l'ascolto sempre, ed è in gamba per quando affronta certi argomenti. Allora, comunque una cosa devo dire, un piccolo appunto. Sì, prego. Lei come fa ad avere soltanto un interlocutore adesso, quello della CISL? Loro comunque andranno sempre a favore dei dipendenti pubblici, perché loro prendono soldi dai dipendenti pubblici. Prendono soldi da tutti gli iscritti e quindi iscritti. E loro lo difendono così. Però le dico una cosa: adesso in un momento così particolare, come fa a dire il rappresentante della CIS che il governo dovrebbe dare o dovrebbe mediare perché i contratti dei dipendenti pubblici sono stati bloccati? Sono stati bloccati perché purtroppo tanti dipendenti pubblici non fanno il loro lavoro. Non fanno il loro lavoro, e questo glielo posso dire perché io, essendo un rappresentante di commercio, molte volte vado negli uffici, e se lei va a vedere negli uffici che cosa succede, su 3-4 scrivanie uno ce ne sta, gli altri vanno in giro, vanno in qua, vanno in là. Okay. Di che cosa si lamentano? Allora, non si devono lamentare. Allora, perché a fine anno... No, ma si figura, io tentiamo di far rispondere Favorin, perché io contavo sul fatto che le telefonate servissero a riequilibrare, cioè tutto il mondo del lavoro privato. Favorin, lei lo sa che insomma la causa dei dipendenti pubblici, per come il fisco spacca i contribuenti gli uni contro gli altri, la garanzia dell'intoccabilità del posto pubblico rispetto invece a quelli a tempo privato e così via, diciamo, non è molto popolare la causa dei lavoratori pubblici, al di fuori dei lavoratori pubblici. Ma che risponde ai nostri due ascoltatori? Ma io devo dire che da un punto di vista della questione dei dirigenti ci sono ragioni che ha espresso l'ascoltatrice che è intervenuta, perché nel tempo ci sono anche errori sindacali, ci mancherebbe, rispetto a una rappresentanza che noi abbiamo soprattutto del personale non dirigente, ma abbiamo ai tavoli anche la firma del contratto dei dirigenti e in quella realtà il problema è che la parte politica o la controparte, questa è la finestra che non è riuscita bene, si è cercato di dire rispetto a una retribuzione così alta una parte, il 10, il 20, il 30% mettiamolo in risultato, ma poi il risultato chi lo deve misurare? Io dico dovrebbero misurare i cittadini con degli indicatori, perché se lo misura il politico quel 30% che dovrebbe essere l'elemento di merito sui prodotti, cioè sulle performance, alla fine diventa un patto tra politico. Quindi io non nego il fatto che noi formiamo contratti anche per i dirigenti, ma noi non siamo la parte valutativa, ci ha provato l'OIV, cioè ci sono tentati molti meccanismi per andare a misurare mi lasci dire una cosa, abbiamo la vicenda sotto gli occhi di Romani questa settimana, salario di merito dei 23.000 dipendenti comunali, lasciamo perdere quelli altri municipalizzate che si arriva a una cifra record, ma detto questo passa da 66 milioni nel 2008 a 345 nel 2013 e a 360 nel 2014, spalmandoli a tutti. Decisione, come dice lei, la politica. Certo, la sindacatura ha le mano, dopodiché adesso che c'è il rilievo tardivo del Ministero, tardivo dopo anni, tutti quanti dicono comunque non si toccano e sono oramai, visto che c'è stato lo stop dei contratti, base integrata come se fosse retribuzione ordinaria. Certo, finché si ragiona così non andiamo da nessuna parte. No, ma sull'accessorio è successo di tutto in questo paese, io sono d'accordo con lei, si può anche decidere di avere 1.000 agenti di polizia in meno, poi pagarli straordinari o risorse aggiuntive nei periodi festivi, cioè ci sono errori applicativi nei quali c'è anche nostra responsabilità, ci mancherebbe, non voglio dire questo, voglio tornare ai dirigenti per dire però che allora la questione vera dovrebbe essere come quella che è regolata nel contratto del privato e se Renzi avesse voluto fare un salto, io ti tengo dirigente di seconda fascia a 50-60 mila come funzionario, poi hai le abilità, le competenze per fare una grande attività di riorganizzazione, ti pago per 3 o 5 anni in quel modo, non è quello che ha scritto Renzi. Io ricordo che i dirigenti privati possono perdere ad nutum il posto di lavoro, eh? Comunque non è così neanche nella riforma Madia per quelli pubblici. Detto tutto questo, comunque vedremo cosa decide la Corte Costituzionale. Intanto grazie a Faverin, grazie a voi tutti, continuate con la 24, appuntamento come a domani.